English Bit di Giulia Crivelli. Worth. What makes the castle worth visiting is the hall with frescoes. Il castello vale una visita per il salone degli affreschi. Il magazine mensile How to Spend It, che nella sua versione inglese è allegato a Financial Times, mentre in quella italiana è allegato al Sole 24 Ore, ha dedicato un lungo servizio a Torino e alle sue bellezze segrete o poco conosciute. La frase qui sopra si riferisce al castello di Manta, che si trova a un'ora dalla città ed è di proprietà del FAI. La parola che ci interessa è worth. La traduzione più semplice è di valore. Our house is worth 100,000 pounds. La nostra casa è valutata 100,000 sterline. How much is that old painting worth? Quanto vale quell'antico dipinto? The museum is certainly worth a visit. Il museo vale sicuramente una visita, come il castello di Manta. The idea is well worth considering. È un'idea che vale assolutamente la pena di prendere in considerazione. The job involves a lot of hard work, but it's worth it. Quel lavoro richiede un impegno molto forte, ma ne vale la pena. The trip was very expensive, but it was worth every penny. Il viaggio è costato molto, ma è stato denaro ben speso fino all'ultimo centesimo. Alcune espressioni legate a worth sono simili all'italiano. The game is not worth the candle. Il gioco non vale la candela. Altre invece sono tipiche dell'inglese. Any teacher worth her salt knows that. Qualsiasi insegnante, letteralmente, che valga il suo sale, letteralmente lo sa. Forse potremmo dire qualsiasi insegnante che abbia sale in zucca. Worthless è, come si può immaginare, l'aggettivo che significa privo di valore. Critics say his paintings are worthless. I critici sostengono che i suoi quadri non valgano niente. Constant rejections made him feel worthless. Le continue risposte negative lo fecero sentire inutile. Worthwhile significa il contrario di worthless. The smile on her face made it all worthwhile. Il sorriso sul suo viso diede significato a ogni cosa. High prices in the UK make it worthwhile for buyers to look abroad. I prezzi alti delle case nel Regno Unito giustificano la ricerca di immobili all'estero. Altra variante, sempre in tema di aggettivi, è worthy, che vuol dire avere uguale valore. He felt he was not worthy for her. Pensò di non essere alla sua altezza.